L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa. Come ogni sabato siamo qui per raccontare questa Europa da altri punti di vista. In questa estate abbiamo deciso di dire Europa, datti una mossa, quindi di mettere al centro la mobilità in Europa, muoversi per turismo, muoversi per lavoro, muoversi per studiare. Oggi ci muoveremo, oggi andremo oltre confine, oggi sfrutteremo le opportunità che l'Europa dà per parlare di volontariato. Le coordinate intanto per seguirci anche sulle nostre piazze virtuali, radio24.it oppure euronetplus.eu, i nostri siti, o ancora su Facebook e su Twitter, o con i miei account personali, Federico Taddia, oppure euronetplus R24. Faremo una lunga carrellata, cercheremo di capire quelle che sono le possibilità, di capire quelli che sono anche gli attori e i protagonisti del volontariato oggi in Europa, ma iniziamo proprio da lì, iniziamo dal capire cosa significhi oggi fare volontariato in Europa. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on. Per parlare di volontariato abbiamo invitato Roberto Museo, che è direttore di CSV Net, il coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato, uno dei referenti nazionali del CEV, che è il Centro Europeo del Volontariato. Ciao Roberto, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno. Ciao. A voi. Buongiorno. Ciao a te. Tutti. Allora, intanto, se ci vuoi veramente in pochi secondi raccontare chi siete, che cos'è il Centro di Servizio per il Volontariato? Sì, brevemente, il coordinamento nazionale raccoglie 78 centri di servizio per il volontariato in Italia. Sono organizzazioni che nascono a seguito della legge quadro sul volontariato del nostro paese nel 1991, ed è una particolarità appunto dell'Europa che tu racconti, è che i centri di servizio, così come sono strutturati nel nostro paese, sono un unicum nella nostra Europa, perché in altri paesi sono presenti centri di servizio ma sostenuti appunto dallo stesso volontariato. Nel nostro caso il legislatore fu molto lungimirante, perché abbiamo il sostegno diretto da parte delle fondazioni di origine bancaria. La nostra Italia ha voluto che i risparmi dei noi cittadini, che erano poi finiti nelle fondazioni di origine bancaria, venissero una parte devoluti a queste organizzazioni con cui sosteniamo le organizzazioni di volontariato in una serie di attività, formazione, progettazione, consulenza gratuita e tutto quello che è la promozione del volontariato nel nostro paese. Certo, il 2011 è stato l'anno europeo dedicato al volontariato, quindi si parlò molto, poi come sempre queste cose anche, no, sono delle fiammate, poi si torna nella quotidianità. È possibile oggi stilare una fotografia di quello che è il rapporto tra il volontariato e l'Europa? È un matrimonio riuscito? Ma guarda, il 2011 è stato un anno molto importante. Noi anche insieme al CEV, appunto, come tu dicevi, che è il Centro Europeo del Volontariato di cui CSVNet è socio, insieme anche ad altri centri di servizio in Italia, abbiamo promosso quello che fu allora il manifesto europeo del volontariato, e devo dire che piano piano alcune azioni anche di lobby nelle commissioni europee che appunto si occupano di questi temi, che poi l'Europa raccoglie nel grande appunto aspetto più ampio, che è dell'economia sociale in Europa, si sono fatti dei passi. Già il riconoscimento di alcune situazioni tipo il passaporto del volontario, il fatto di riconoscere alcuni crediti formativi, il fatto che si sta lavorando perché le competenze informali di chi svolge attività di volontariato possano poi essere riconosciuti nei paesi di origine, e sono dei piccoli passi che comunque sono il frutto di quell'anno che adesso sta dando alcuni, diciamo, risultati. E so che avete fatto anche due conti, cioè avete cercato anche di quantificare quello che è il valore economico del volontariato oggi in Europa, giusto? Sì, aggiungerei anche la parola economico e sociale. Noi siamo appunto di quel pensiero che dobbiamo fare attenzione. Non si misura il lavoro volontario solo perché il volontariato è una stampella per le amministrazioni pubbliche, oppure perché c'è necessità di sostenere la crisi del welfare altrimenti attraverso il lavoro volontario. Noi riteniamo che questa misurazione, che parte da lontano e parte da un lavoro promosso dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che ha elaborato anni fa proprio un manuale sulla misurazione economica e sociale, insieme a tutti, anche gli altri paesi che sono nel CEV, abbiamo promosso, ognuno per propria competenza, delle rilevazioni su, insieme agli istituti nazionali di statistica, applicando il manuale attraverso una serie di questionari e di interviste. Per dare alcuni numeri agli amici che ci ascoltano, noi insieme all'Istat abbiamo appunto raccolto nel 2009 un dato che è enorme, cioè solo in Italia ci sono oltre 3,2 miliardi di ore all'anno di aiuti informali da parte di persone che svolgono attività di volontariato, e di cui di questi 2 miliardi soltanto dalle stesse donne. Cosa vuol dire? È che allora abbiamo messo in campo una serie di azioni che stanno vedendo appunto i primi risultati nel 2013 insieme all'Istat. Concretamente cosa stiamo facendo? Abbiamo somministrato, attraverso la rilevazione che ogni anno fa Istat e che si è conclusa qualche settimana fa, quella relativa agli aspetti sulla vita quotidiana delle famiglie italiane, abbiamo integrato appunto attraverso la rete dei centri di servizio del volontariato un questionario su un campione di 24.000 famiglie per monitorare, per misurare quelle che sono le attività gratuite svolte dai cittadini con più di 14 anni di età. E come paese Italia siamo il terzo paese, insieme al Portogallo, alla Moldavia, al Montenegro, che stiamo facendo questa misurazione. Sì. Significa che anche il nostro paese si sta dotando di criteri che ci consentono poi di che cosa? Raccontare quanto pesa questo lavoro dei volontari del nostro paese sul PIL. Sappiamo bene che è un indicatore grezzo, è un indicatore che nel nostro mondo stiamo spesso ragionando in altri indicatori sociali, come quello del benessere interno lordo, come il benessere ecosostenibile. Però è importante anche dar conto, chiamiamo così, ai decisori politici del peso che il volontariato ha nei diversi paesi. Si stima appunto che nel nostro paese siamo sul 4-5% del PIL. Roberto, prima di salutarci, una iniziativa importante sempre del CEV è questo concorso che è stato lanciato dal Centro Europeo del Volontariato per così definire e stabilire qual è la capitale europea del volontariato, un concorso ponte tra il 2011, che fu l'anno del volontariato, e il 2013, l'anno attuale, che è l'anno della cittadinanza attiva. Ed è stato lanciato questo concorso, la scadenza per le candidature è il 1 ottobre 2013, e si vuole andare a cercare quella che è la città più virtuosa? Chiudo con una battuta: è chiaro che come soci del CEV aderiamo a questo concorso. Io credo che non esistono le capitali né italiane né europee del volontariato. Ogni città dove i cittadini si impegnano per cambiare la storia dei propri territori sono le capitali del volontariato, e questo è il messaggio che spero che i tuoi ascoltatori ascoltino, perché far volontariato fa bene anche proprio alla propria vita. csvnet.it è il sito per tutte le informazioni. Grazie davvero a Roberto Museo, direttore di CSVNet, coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato. Roberto, buona estate. Grazie, ciao. Grazie a te e con gli ascoltatori. Ciao. L'altra Europa. Oh pirates, yes, they rob I. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the end of the Almighty. We're forward in this generation, triumphantly. Iniziamo quindi questa carrellata per capire anche nel concreto cosa significa oggi fare volontariato in Europa. Sono tanti gli attori protagonisti, sono tante le associazioni, i movimenti, le persone che lavorano attorno a questo importante strumento, perché il volontariato è sì esperienza di vita, ma il volontariato ha tantissime ricadute pratiche, a volte essenziali, non solo in un progetto culturale, ma proprio in un progetto di aiuto, di sostegno. Con noi c'è Riccardo Carraro, che è coordinatore dell'Associazione Servizio Civile Internazionale, un'associazione nata nel 1919, una delle prime ad essere attive proprio nel settore del volontariato. Ciao Riccardo, benvenuto all'Altra Europa. Ciao a tutti e grazie dell'invito, buona giornata. Allora, che cos'è oggi il Servizio Civile Internazionale? Sì, il Servizio Civile Internazionale è la branca italiana di un movimento mondiale che ha più di 40 branche in Europa e più di 50 nel mondo. Come dicevi tu, siamo nati nel 1919, perché su una base di un fatti proprio molto concreti. Era finita la Prima Guerra Mondiale e sull'idea di un pacifista svizzero, Pierre Ceresol, un gruppo di volontari tedeschi e francesi e di altri paesi si sono messi assieme e in un paese lungo il confine fra Francia e Germania hanno provato a fare il primo campo di ricostruzione. Perché volevano fare? Per pensare appunto che la guerra è fatta dai potenti, ma le persone possono mettersi assieme, costruire qualcosa e superare le barriere e le distanze culturali e addirittura le distanze che avevano portato a quella tragedia che è stata la Prima Guerra Mondiale. Certo. E potevano mettersi assieme per fare che cosa? Per contribuire con un progetto a un contesto locale. Quello fu il primo campo di volontariato dello sci nel 1919. Oggi cerchiamo di mantenere lo stesso spirito, anche se ovviamente i tempi sono cambiati e il mondo che ci circonda è profondamente diverso. Certo, voi siete aperti a tutte le zone del mondo, oggi ci concentriamo in particolare in Europa. E, sì. A cosa serve oggi fare volontariato in Europa, al di là del dare una mano, al di là dell'aiuto concreto? Sì. Noi crediamo che volontariato sia innanzitutto una forma piena di cittadinanza attiva. Sì. È un'occasione di scambio, di conoscenza e di superamento di tutte quelle che sono le barriere reali e culturali che separano e dividono le persone. Quindi più che appunto verso un'esperienza di aiuto, nella nostra appunto idea, questi campi di volontariato sono sì un sostegno concreto a una comunità in loco, ma soprattutto un'occasione per essere cittadini attivi, e cittadini attivi non soltanto nel proprio paese, ma proprio in una comunità più ampia e allargata, quella dell'ambito europeo, per chi vuole farlo in Europa, questa esperienza di volontariato. Per cui essere cittadini attivi vuol dire mettere da parte assieme energie, conoscenze, idee, creatività e assieme contribuire per un progetto che abbia un'impronta sociale e che abbia un impatto in una comunità in loco, mm-hmm. al tempo stesso appunto conoscendosi e quindi superando qualunque pregiudizio rispetto all'altro, rispetto a chi veda un paese diverso, perché ricordo che come nel 1919 anche oggi i campi dello sci sono sempre campi internazionali e qui partecipano persone da tanti paesi diversi dell'Europa e non solo, e si mettono assieme per 10 giorni per appunto svolgere questa attività a beneficio di un progetto sociale di una comunità specifica. Mm-hmm. Sul vostro sito ci sono le call, sono proprio delle convocazioni, degli inviti, dei richiami per questi campi brevi, una settimana, 10 giorni, 2 settimane, ma anche per periodi più lunghi, 6 mesi, un anno, certo. Che diventano delle micro scelte di vita. Sì, si può passare dall'esperienza più breve, che è un campo di volontariato, che proprio cliccando sul nostro sito c'è un database molto ampio, aggiornato, che include tutte le possibilità di fare volontariato in Europa anche nei prossimi mesi, oppure si può scegliere sempre cliccando sul volontariato a lungo termine e quindi immaginando esperienze di volontariato come per esempio il Servizio Volontario Europeo che promuoviamo anche noi e che si variano per un periodo più lungo, quindi dai 6 ai 12 mesi. Riccardo, un'ultima domanda, bisogna avere competenze particolari o comunque conoscenza delle lingue o ci si può anche buttare? Noi pensiamo che soprattutto ci si debba buttare. Certo che una conoscenza minima dell'inglese normalmente è molto utile e la chiediamo sulla base di un'autovalutazione della persona, perché immaginiamo che questo può facilitare il fatto di svolgere un'attività che sia socialmente facile, insomma, da gestire con persone di tanti paesi diversi. Ma proprio perché secondo noi il volontariato è cittadinanza attiva, essere cittadini attivi, non chiediamo una professionalizzazione, perché crediamo che tutti possono e anzi debbono essere cittadini attivi ed esserlo assieme, in gruppi che si appunto attivano a livello locale e con lo sguardo internazionale. Per cui proprio per questo ci sono delle tematiche che hanno i nostri campi, per cui ognuno può scegliere quella che risponde più al suo interesse, quello che parlerà di diritti, quello che parlerà di migrazioni, quello che parlerà di ambiente. E in ogni campo si fa un'attività concreta, fisica, differente a seconda delle inclinazioni delle persone, però secondo noi non chiediamo una professionalizzazione, ma chiediamo la volontà di mettersi in gioco e di appunto superare tante paure magari anche o barriere e vivere un'esperienza piena di cittadinanza attiva internazionale. I temi sono veramente tanti, alcuni ce li hai citati, si va veramente, per esempio adesso stavo leggendo una summer school in Germania, cambiamenti climatici e comunicazione, oppure i diritti, o ancora lavorare su se stessi, quindi veramente i campi sono tanti. Secondo te c'è una porta d'ingresso privilegiata? No, il consiglio è quello di trovare la cosa più attinente alle proprie corde. Cosa più attinente e soprattutto poter lavorare sulla propria motivazione, che secondo noi è proprio un passaggio fondamentale per andare verso un campo di volontariato dello sci, per cui capire a cosa sono motivato a fare, cosa per realtà è importante per me, e poi scegliere sia l'attività concreta fisica del tipo del campo, che l'attività contenutistica, perché ricordiamo che i nostri campi cercano sempre di mantenere tanto un aspetto di attività concreta quanto un momento di momenti di riflessione su tematiche globali che ci interessano tutti, che vanno appunto dal cambiamento climatico alle migrazioni, ai diritti di cittadinanza, a pace e conflitti, proprio come i primi campi sci del 1919 e così via. Per cui si cerca sempre, è fondamentale che chi si approccia appunto pensi a questo e in virtù di questo scelga il campo. Il database a cui si accede attraverso il nostro sito aiuta proprio in quello, perché si può fare una ricerca specifica sulla base sia del periodo che del luogo dove si vuole andare che della tematica del campo. Ottimo, ricordiamo il sito che è scilinettaitalia.it. Un grazie davvero a Riccardo Carraro di Servizio Civile Internazionale. Buona estate Riccardo, a presto. Grazie mille, buona estate anche a voi, grazie tante della presenza. But I'd be yours if you'd be mine. Stretch out my life and pick the seams out. Take what you like, but close my ears and eyes. Watch me stumble. Il volontariato è uno dei campi privilegiati anche delle ricerche, delle proposte dell'associazione Scambi Europei, scambieuropei.com, un portale che mette proprio al centro quella che è la mobilità, e con noi c'è Michele Casalboni. Ciao Michele. Ciao Federico, saluto a tutti gli ascoltatori. Tu lavori, collabori con Scambi Europei, ma soprattutto sei un protagonista, nel senso che di questi scambi li fai e vorresti che diventasse anche la tua professione, vero? Esattamente, io mi sono laureato a marzo 2012 in scienze diplomatiche e diciamo vorrei diventare cooperante e vorrei fare il cooperante come professione nella vita e lo scorso settembre 2013 ho avuto l'opportunità di passare 8 mesi in Georgia, nel Caucaso, a Tbilisi, dove lavoravo presso un'ONG locale georgiana che principalmente si occupa di, diciamo, educazione non formale, di attività post scuola per bambini rifugiati di guerra. Ecco, e per precisione sono internal displaced person, è un'altra categoria del diritto internazionale, perché di fatto sono sempre georgiani che si sono dovuti muovere all'interno della Georgia, non hanno cambiato paese, quindi sono certo. Una categoria diversa, diciamo. Quanto ti ha cambiato, quanto ha influito nella tua formazione personale e anche professionale questa esperienza? Certo, tutte e due le cose che hai detto, che comunque dopo tanti anni di teoria all'università, per la prima volta mi sono trovato a operare davvero sul campo, a vedere quali erano le difficoltà, a operare in contesti diversi e soprattutto con culture diverse. Comunque la Georgia è un paese che si sta aprendo, però rimane ancora una società fortemente tradizionalista, e quindi per la prima volta avere a che fare con del personale non italiano ma georgiano, quindi tutte le differenze culturali, soprattutto dal punto di vista lavorativo, le tempistiche, le capacità di organizzarsi, di rapportarsi con le persone, è stato soprattutto questo, una forte crescita personale da questo punto di vista. E chiaramente sì, sono cambiato molto, sono diventato molto più realista, diciamo, mai smettere di essere idealisti, però ecco, un'esperienza di questo genere ti porta a vedere davvero cosa significa lavorare in progetti certo. di all'estero, e quindi cominci a capire la realtà delle cose, diventi un po' più realista. Michele, un'ultima domanda, che Europa hai visto dalla Georgia durante la tua esperienza? Che Europa hai respirato? Che Europa auspicata magari hai trovato parlando con le persone del posto? Sì, allora praticamente dunque quello che ho notato è che in Georgia c'è una grandissima voglia di dare un taglio netto allo Stato sovietico, comunque, quindi per loro la Russia e tutta quella zona lì è, diciamo, un passato che loro vogliono superare, vogliono andare oltre, e per loro l'Europa è il futuro. Quindi vogliono buttarsi totalmente verso Occidente, per rendervi l'idea, la bandiera dell'Unione Europea campeggia fuori da tutte le istituzioni georgiane, sebbene loro comunque non siano ancora un membro dell'Unione Europea. Loro hanno questo sogno occidentale, la membership della NATO e l'entrare nell'Unione Europea, un processo lungo e molto difficile, quasi impossibile al momento. Al momento sì, però... L'Europa per loro rappresenta un'altra via, il futuro, un'altra, diciamo... un cambiamento totale rispetto al loro passato. Comunque loro gli anni dell'Unione Sovietica la vivono proprio come una vera e propria occupazione da parte della Russia, tant'è vero che a Tbilisi c'è il Museo Nazionale, che è una stanza che è proprio il museo dell'occupazione sovietica. Mm-hmm. Michele, grazie davvero per questa tua testimonianza, ricordiamo ancora il sito scambieuropei.com, e in bocca al lupo per i tuoi sogni, che insomma mi sembrano belli concreti, quindi dacci dentro, ok? Viva il lupo Federico, grazie mille a te. Buona estate. Un euro Post-it, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro Post-it. Un premio per la salute. La Commissione europea presenta la quinta edizione del Premio europeo per il giornalismo sulla salute, un premio dedicato ai giornalisti che scrivono di salute, sanità, alimentazione. Il premio vuole stimolare un giornalismo di qualità che sensibilizzi alle questioni relative all'assistenza sanitaria e ai diritti dei pazienti. Tutti i partecipanti al concorso devono essere cittadini o residenti in uno dei 28 Stati membri dell'Unione Europea e devono avere compiuto i 18 anni di età. Gli articoli non devono superare le 20.000 battute, spazi inclusi, e ciascun partecipante può presentare fino a 2 articoli. Gli articoli devono essere redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea e devono essere stati inizialmente pubblicati su una testata periodica, su carta oppure online, fra il 1 agosto 2012 e il 30 settembre 2013. Prima una giuria nazionale e poi una giuria europea selezioneranno i 28 finalisti, che saranno invitati a Bruxelles all'inizio del 2014 per partecipare alla cerimonia di premiazione. Si possono vincere più di 6.000 euro, ma bisogna presentare la propria candidatura entro il 30 settembre. Per saperne di più, ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize. L'altra Europa. When the daylight's gone and you're on your own and you need a friend. Ancora buon sabato da Federico Taddia. Questa è sempre l'Altra Europa, in questa puntata dedicata al muoversi, dedicata alla mobilità, la mobilità per fare volontariato, quindi una puntata così dedicata al darsi agli altri, a spendere il proprio tempo per altre persone. Lo facciamo con la nostra apertura, che è l'apertura europea. Stiamo conoscendo diverse esperienze, adesso andiamo nel sud, nel profondo sud dell'Europa, perché andiamo a Palermo, dove per presentarvi un centro, si chiama ACESI, è Centro Studi ed Iniziative Europee, è una organizzazione non governativa europea, è un centro che fa tantissime attività, si ispira a quelli che sono un po' i principi del sociologo Danilo Dolci, e mi piaceva proprio questa vocazione europea che partiva da Palermo, che partiva da un'esperienza antica, però altrettanto contemporanea. E con noi c'è la responsabile, la coordinatrice del Dipartimento di Mobilità del CESI, diamo il benvenuto a Roberta Lobianco. Ciao Roberta, buon sabato. Salve, buongiorno a tutti. Ho fatto una brevissima presentazione, però forse sì, sei tu più brava a dirci chi siete e cosa fate. Sì. E perché questa vocazione appunto verso l'Europa? Ok, cercherò di essere breve perché fondamentalmente c'è tanto da dire e mi piace tanto raccontare, però so che i tempi sono abbastanza ridotti. Allora, come dicevi tu, il CESI è un'organizzazione non governativa, laica, indipendente, fondata nel 2001. E grazie al lavoro di questo sociologo triestino Danilo Dolci, che si trasferì intorno agli anni 50 in Sicilia, un po' per partecipare in prima persona proprio alla rinascita del Meridione, e lì in realtà arrivò specificatamente verso Trappeto, Partinico, e si rese conto della brutalità, della forte povertà che caratterizzava poi queste terre, e quindi si mise in prima persona per lottare contro la mafia, per risvegliare le coscienze del popolo, attraverso tutta una serie di attività, ne cito qualcuna: lo sciopero alla rovescia, l'elaborazione della maieutica reciproca, da cui poi il CESI ha preso spunto per sviluppare le proprie metodologie. Sì. Quindi siamo arrivati, in realtà quindi il passato continua a essere testa presente, perché il Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci tuttora esiste, è un'associazione sorella del CESI, qui lavoriamo insieme dal 2001, da quando il CESI poi è nato, e abbiamo sempre avuto questa attenzione all'Europa. Siamo nel 2001, il CESI era una piccola associazione che lavorava con gli scambi culturali, quindi fin da subito si è rivolta alla mobilità dei giovani, intuendo che la mobilità dei giovani fosse in realtà la realtà del futuro. Adesso possiamo dire che la mobilità dei giovani è la realtà del futuro, certo. Per cui sono cominciati gli scambi culturali, che erano delle opportunità di apprendimento non formale per i giovani. Da lì siamo passati a progetti un po' più complessi, con il Servizio Volontario Europeo, che è una forma, un'opportunità per giovani da 18 ai 30 anni di andare all'estero, in Europa ma non solo, anche fuori dall'Europa. Sì. È di vivere un'esperienza di volontariato in diversi settori, dal settore sociale, ambientale, e così artistico, culturale, e da un periodo di un mese a un periodo di 12 mesi. Uh-huh. E la Commissione Europea finanzia pressoché tutto, cioè adesso ti finanzia al 90% il biglietto di andata e di ritorno, ti finanzia vitto alloggio, ti finanzia il visto se devi andare fuori dall'Europa, i vaccini se devi andare fuori dall'Europa, un corso di lingua. Mm-hmm. Per cui il volontario, quindi il giovane che vuole sperimentarsi in Europa o fuori, ha la possibilità, praticamente a costo zero, di vivere un'esperienza formativa veramente incredibile. Il CESI accoglie anche, oltre a inviare centinaia di giovani italiani, non siciliani, non necessariamente siciliani, siamo aperti a tutta l'Italia. Sì. Accoglie anche volontari da tutto il mondo, possiamo dire, da almeno 6 anni, apportando un contributo a Palermo. quindi soprattutto il centro storico, veramente incredibile. Per cui i nostri volontari lavorano sia dentro l'ufficio che nei nostri progetti locali, con migranti, donne, bimbi, disabili da 2 anni, insomma, e noi assistiamo, almeno io personalmente assisto ogni giorno al cambiamento di vita, di prospettive che questi giovani hanno. Questo è bello, insomma, quello che hai detto, perché vedi appunto il cambiamento di prospettive di vita è un'occasione, una di quelle grandi possibilità che l'Europa può offrire, che è l'Europa delle opportunità, è quella che tanto cerchiamo di raccontare, tanto cerchiamo anche di incentivare, perché le occasioni ci sono, bisogna cercarle, bisogna coglierle, bisogna sfruttarle, bisogna anche farsi aiutare, che è quello per esempio che fate voi, che prendete anche per mano questi giovani e li accompagnate. Esatto. Perfetto, grazie davvero Roberta. E tutte le informazioni ovviamente sul sito, ce lo vuoi ricordare? www.cesie.org. In realtà poi chiunque fosse interessato si può iscrivere direttamente al sito alla newsletter, per cui in tempo reale è informato su tutte le opportunità formative, mobilità e il resto. Ottimo, grazie, buona estate, ciao. Grazie a voi. What about all the things that you said is yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Volontariato, il volontariato è anche l'ambiente e anche in campo ambientale. L'Europa offre tantissime possibilità. Diamo il benvenuto a Luca Gallerano, responsabile nazionale settore volontariato di Lega Ambiente. Ciao Luca, buon sabato. Buongiorno a tutti voi. Lega Ambiente, insomma, conosciamo le attività, conosciamo i campi, perché sono anni che siete, per fortuna, in prima linea, e volevo appunto capire con te un po' invece anche questa apertura europea, e cosa vuol dire chiedere a una persona non solo di fare volontariato, ma farla appunto per un altro paese. Come racconta un libro del nostro presidente Vittorio Goria di Lezza, il mondo è tutto attaccato, quindi essere ambientalisti non può assolutamente avere come confini quelli geografici degli stati. I problemi ambientali sono problemi che hanno ripercussioni su tutto il nostro pianeta e come tali Lega Ambiente, nel momento in cui ha avviato già nel lontano 91 le attività di campi e progetti di volontariato, invitando le persone di tutta Italia a partecipare ai nostri progetti, ha aperto anche un fronte di progetti internazionali in tutto il mondo e aderisce a uno dei network mondiali più importanti di associazioni di volontariato. Mm-hmm. Quindi diventa un'esperienza doppia, perché ovviamente non c'è solo quella del volontariato prettamente ambientale, ma c'è anche quella della condivisione, dello scambio interculturale. Assolutamente, è un'esperienza sia di carattere sociale, sociologico, ma anche ovviamente la realizzazione di progetti ambientali permette di prenderci cura direttamente della nostra casa, del nostro pianeta. Mm-hmm. E con noi c'è anche Laura Marino, che è una volontaria al campo di Corfù, che credo che sia una dei campi che gestite direttamente voi. Ciao Laura. Ciao. Ti trovi a Corfù a fare cosa? In questo momento sono tornata da Corfù. Okay. Sì, il campo è finito il 10 luglio, sono tornata diciamo da poco, sono ancora lì con la mente. immagino. Sì, abbiamo pulito un'area meravigliosa della laguna di Corission, appunto della parte meridionale dell'isola, e abbiamo sensibilizzato sia la popolazione del luogo sia turisti, bagnanti, sull'importanza di questa laguna. Laura e Luca, vi chiedo un minuto di pazienza, è il momento delle informazioni per chi sta viaggiando, poi torno immediatamente da voi. L'altra Europa. L'altra Europa, stiamo parlando di volontariato e ambiente, con noi ancora Luca Gallerano, responsabile nazionale settore volontariato di Lega Ambiente, Laura Marino, una volontaria che ha partecipato al campo di Corfù. Luca, è una stagione lunga, inizia di solito a Pasqua, la stagione dei campi di volontariato di Lega Ambiente, forse adesso è metà agosto, forse è un po' tardi per iscriversi? La maggior parte dei progetti sono avviati o si stanno riempendo. Abbiamo ancora delle proposte, abbiamo diverse cose in Italia, ma anche all'estero, ci sono dei campi in Islanda, ma anche fuori dall'Europa, abbiamo Messico, India, Giappone. E in Italia abbiamo dei campi molto interessanti nel settore ambiente e legalità, ad esempio a Lecco, a Sortino, o anche a Finale Ligure. A settembre avremo un campo, un nuovo esperimento che facciamo con gli alberghi della rete degli Ecolabel di Legambiente, alberghi che hanno dei criteri di sostenibilità ambientale e che ospiteranno un gruppo di volontari che sistemerà i sentieri della zona. legambiente.it/volontariato/campi per conoscere quelle che sono le proposte. Laura, volevo invece approfittare della tua recente esperienza. Prima ci hai raccontato in sintesi quello che avete fatto. Qual è il valore aggiunto di essere persone che arrivano comunque da paesi diversi e che comunque sono lì a fare un'esperienza di volontariato, non a casa loro? Sì. È stato magnifico proprio questo aspetto. Ognuno di noi ha portato esperienze, aspetti positivi e negativi del territorio da cui veniva. C'era una volontaria dalla Puglia che era vicinissima a Corfù, che ha trovato tanti punti di contatto e tanti miglioramenti che si possono fare al territorio di Corfù proprio grazie all'esperienza simile della Puglia, che ha vissuto in un parco, in un'area protetta lì vicino. E poi ognuno a proprio modo vive la sensibilità verso l'ambiente, ha proprio appunto è cresciuto ed ha sperimentato cambiamenti personali e della società, e li ha riportati proprio ai volontari di Corfù che stanno vivendo un periodo molto, insomma, sono veramente messi alla prova da leggi governative che li, per cui devono si sentono costretti a cedere il passo a strutture turistiche poco rispettose, anche a insomma, guadagni facili della stagione, senza mettere in conto quale sarà la stagione successiva e come si ritroveranno il territorio alla stagione successiva. Certo, la sostenibilità. E poi hai detto che facevate anche proprio attività di sensibilizzazione sia con gli abitanti sia con i turisti, che quindi sì, esatto, perché questa area protetta, questa laguna è proprio vicino a una spiaggia tra l'altro bellissima, visitata da tanti turisti nazionali e internazionali, e quindi eravamo là con le magliette gialle a pulire l'ingresso della laguna dalla plastica, tantissime bottiglie di plastica, e c'erano tanti curiosi che ci riconosce qualcuno, gli italiani ci riconoscevano chiaramente dalle magliette, qualcuno ci chiedeva chi eravamo, come mai fossimo là, abbiamo spiegato, un paio di signori si sono fatti prestare i guanti e hanno con noi pulito le dune, e questa è stata una soddisfazione per tutto il gruppo enorme, perché un piccolo gesto ti dà insomma tanta energia per continuare a pulire e per farlo il giorno dopo. Perfetto, grazie davvero a Laura Marino, volontaria a Corfù, e a Luca Gallerano, responsabile nazionale settore volontariato. Buona estate e buon lavoro. Ciao. Grazie, ciao. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know. E chiudiamo questa puntata con un taglio diverso, perché parlando di volontariato, lo avete sentito, viene normale rivolgersi soprattutto ai giovani, pensare agli studenti o pensare agli universitari, pensare a chi ha tempo e che quindi magari può permettersi di dedicare una settimana, 10 giorni, a volte anche qualche mese, a volte un anno intero. Ma c'è tutto anche un settore invece che è dedicato al volontariato della terza età, quindi non nei confronti delle persone più anziane, ma si chiede proprio loro, ai pensionati, che anche loro hanno tempo di mettere questo tempo a disposizione di altri. Il progetto europeo si chiama Attivi Sempre, e con noi c'è Silvia Peretti, Pitto, che lavora nel centro servizi di volontariato di Ferrara, progettazione sociale di Agire Sociale, sono stati protagonisti proprio di uno scambio di volontariato dove la terza età era protagonista. Ciao Silvia, benvenuta all'Altra Europa. Grazie, ciao. Buongiorno a tutti. Intanto, che cos'è questo progetto europeo Attivi Sempre? Allora, questo progetto è appunto un progetto che fa parte del programma europeo Lifelong Learning Program, che è appunto un programma che la comunità europea prevede a sostegno dell'apprendimento per tutto l'arco della vita, sì, da parte delle persone, in modo anche formale oppure informale, come è questo tipo di progetto. È un progetto di scambio con la Lituania, in particolare con una città che si chiama Vilnius, dove è stato promosso da un'associazione della terza età, ecco, qui da noi si chiamano così. E prevede appunto degli scambi effettivi di 3 settimane in accoglienza e poi dopo in invio di volontari italiani per 21 giorni di, appunto, come dicevi prima, persone che abbiano compiuto i 50 anni di età. Quindi voi avete già ospitato la prima fase con 6 volontari lituani che sono stati a Ferrara? Sì, sì, sono stati già a Ferrara a maggio, sì, e sono stati ospitati da associazioni di volontariato e da cooperative sociali del territorio. Diciamo che le tematiche principali che abbiamo cercato di incrociare anche nell'accoglienza sono, da un lato, il settore ambientale naturalistico, quindi poter lavorare nel verde a contatto con la natura, insieme con un ambito invece sociale, per cui le associazioni e le cooperative si occupano comunque di favorire un inserimento sociale ed educativo di bambini o comunque di persone disabili all'interno del tessuto della comunità sociale, per cui l'incrocio sia in Italia che poi dopo anche quando si andrà a Vilnius sarà proprio attenzionato, ecco, a mettere insieme queste due tematiche che non sempre è così evidente, ma che comunque arricchiscono molto, ecco, anche la possibilità effettivamente di partecipare in vario modo alla comunità locale e di conoscere in un modo diverso anche per le persone straniere come viene organizzata un'attività sociale, culturale nel territorio. Cioè, Silvia, fa sorridere, ma in verità poi c'è un potenziale enorme, no? Perché siamo un po' un Erasmus della terza età. Ma per esempio la lingua è stata un problema? Allora, la lingua, infatti, anche quando cerchiamo di contattare i volontari, sembra essere sempre così la preoccupazione principale, perché molto spesso non si parla anche l'inglese, che è la lingua veicolare anche in questi casi, non tutti parlano. Per cui anche nell'organizzazione proprio precedente a questi scambi c'è un po' la tensione, da un lato, a cercare di individuare alcuni, magari su 6, 1 o 2 volontari che sappiano parlare la lingua, certo, veicolare, quindi l'inglese. E poi comunque abbiamo fatto dei piccoli corsi, insomma, di una ventina di ore di l'ABC dell'inglese. Sì, un'infarinatura, certo. E esatto. La seconda fase di questo progetto è prevista appunto con l'accoglienza a Vilnius dei volontari italiani tra il 2 e il 23 settembre. E con noi c'è una delle persone che parteciperà a questo scambio, è Maria Bordini. Ciao Maria, benvenuta all'Altra Europa. Ciao a tutti. Stai studiando le lingue? Allora, io sono ex insegnante di francese. Sei favorita. Però sì, sono un po' favorita, però parlo, insomma, abbastanza, ecco, anche l'inglese, quindi me la cavo. Bene. E tra gli scopi di questa, diciamo, di questo progetto, dunque questo non è il primo progetto a cui io partecipo, volevo fare una piccola premessa, ho già, certo, partecipato a un progetto di scambio europeo nel 2005, quindi questi progetti europei risalgono al 2005 e per questi 8 anni sono stati fatti altri progetti, in particolare con la Germania e con la Spagna, perché per la Germania l'Assia e per la Spagna la Catalogna sono 2 regioni gemellate con la regione Emilia-Romagna, quindi il punto di partenza per poter fare questi scambi è stato anche avere dei contatti con le regioni gemellate con la nostra. Perfetto, comunque mi sembra che non è mai troppo tardi per sentirsi europei. No, non è mai troppo tardi, e nel senso che l'invecchiamento della popolazione è, diciamo, un dato di fatto, un dato reale, però si pensa a un invecchiamento attivo, insomma, questo active aging che ormai viene un po' propagandato dappertutto, e eventualmente questi scambi, che l'ultimo che è stato fatto, quello che stiamo ancora facendo perché noi dobbiamo ancora partire, ha visto l'arrivo in Italia di volontari che definire sopra over 50 è poco, perché a due avevano 80 anni. Davvero? Però c'è questo desiderio profondo di mettere anche le competenze professionali acquisite nella, durante l'arco lavorativo a disposizione, diciamo, di attività di volontariato che sono non più informali. Certo, sì, un apprendimento informale, un'attività informale, non strutturata. Certo. Comunque sì, mi sembra che il tuo sia uno spirito bello, insomma, contagioso anche, no? E consapevole proprio dell'importanza di fare questo passo, che è un passo culturale, è un passo dove c'è dell'altruismo, è un passo dove ci si mette comunque in gioco. Ecco, questo è soprattutto la prima cosa che viene richiesta ai volontari, cioè di mettersi in gioco, di avere entusiasmo e di avere un forte spirito collaborativo e anche desiderio proprio di confrontarsi, di apprendere, perché questo apprendimento lungo tutto l'arco della vita è fondamentale. Non so se vuoi che parli un attimo della mia esperienza adesso in accoglienza. Eh sì, dai, proprio in sintesi, come è andata? Ecco, secondo me è stata un'esperienza molto bella, e perché tanto la Lituania è un paese di cui sappiamo cos'è, sappiamo da dove è uscito, però non ne conosciamo molto, diciamo, la struttura civile, sociale, organizzativa. Quindi è stato utilissimo anche per noi italiani parlare con loro. Abbiamo organizzato tutti i giorni, praticamente ci siamo visti, e parlavamo anche di come si vive in Lituania, come si affronta il dopo 89, e come lavorano nel sociale e come stanno tentando di recuperare molti parchi. Loro hanno molti parchi molto verde, anche molte ex caserme che vogliono ristrutturare, e noi saremo poi impegnati là anche nella ristrutturazione di questi luoghi che dovrebbero diventare dei luoghi di incontri, di convegni intergenerazionali, perché naturalmente non saranno incontri o convegni riservati solo ai senior, ma a tutte le persone che potranno usufruire di queste strutture. Certo, perfetto. No, Maria, è chiarissimo. Guarda, dobbiamo chiudere, ma sei stata un'ottima sintesi. In bocca al lupo per l'attività. Magari ci risentiamo, così ci racconti anche in diretta da là quello che andrete a combinare. Quindi magari a settembre sicuramente potremo fare un collegamento direttamente da Vilnius. Un grazie a Maria Bordini, un grazie a Silvia Peretto. Ricordiamo il sito agiresociale.it. Questo grazie va a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Un grazie anche alla squadra: Margherita Ina, che con me ha scritto la puntata, e Roberto Scaltritti alla parte tecnica. L'Europa si dà una mossa, anche sabato prossimo continueremo a fare mobilità per lavoro, per turismo, per volontariato e per studiare. Ancora ciao da Federico Taddia. L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.